Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis. Il periodo di lockdown ha avuto un impatto significativo sui consumi elettrici, sia in termini quantitativi che in termini di struttura anche delle fonti di approvvigionamento. Per molti versi il sistema elettrico ha funzionato in questo periodo con modalità vicine a quelle che dovrebbero diventare la norma tra una decina d'anni, quindi nel 2030, quando secondo il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima il contributo delle rinnovabili al sistema energetico dovrà raggiungere complessivamente il 30% e nel settore elettrico il 55%. Insomma, la pandemia ci ha messo in condizioni di effettuare un esperimento che mai avremmo potuto e neanche probabilmente voluto fare. E allora RSE, cioè Ricerca Sistema Energetico, ha da pochi giorni pubblicato, approfittando diciamo di questa situazione, un dossier nel quale analizza quanto è accaduto e anche che cosa ciò ci insegna. Ne parliamo con Luigi Mazzocchi, direttore del Dipartimento Tecnologie di Generazione di RSE. Buonasera Mazzocchi, benvenuto. Buonasera Maurizio, buonasera a tutti. Abbiamo fatto qualche analisi sull'andamento dei consumi e sulla produzione di energia. Ovviamente la fermata di molte attività ha prodotto un calo di domanda e lo si è visto anche molto bene nelle settimane di marzo in cui ci sono stati successivi provvedimenti del governo per quanto riguarda le attività che venivano mano a mano fermate, sospese. Certo. Quindi si è visto che nella prima settimana, quella che iniziava il 9 di marzo, c'è stato un calo modesto intorno al 5%, mentre l'ultima settimana di marzo si è arrivati anche a un 24%. Di consumo. Mediamente in quel mese abbiamo consumato l'11% in meno del mese dell'anno precedente, il mese di marzo. E questo calo di domanda si è concentrato prevalentemente nelle regioni settentrionali, in particolare nella Lombardia con un meno 15% rispetto all'11% nazionale, mentre invece nelle regioni del sud e le isole è stato molto più modesto, dall'1 al 4%. È chiaramente legato alle attività produttive e alla loro certo. collocazione geografica. Ecco, a queste situazioni si è anche combinato un altro fattore che non c'entra con il virus, non direttamente, che è il prezzo del gas. Il prezzo del gas in questo mese di marzo è stato notevolmente più basso di quanto non fosse un anno prima, circa la metà. E quindi questo ha modificato innanzitutto i prezzi dell'energia, che sono diminuiti, uno perché il gas costava meno, due perché le fonti di energia più utilizzate sono state le rinnovabili che hanno un costo variabile basso e quindi nella borsa dell'energia sono verificati prezzi molto bassi, in alcune giornate anche prezzi zero per qualche ora. Diciamo sul mercato elettrico, medio, ecco, non sulla bolletta dell'utente. Mercato elettrico, naturalmente. Ecco. E diciamo che è sceso quasi di un fattore 2 rispetto all'anno precedente. Questo ha determinato anche una forte diminuzione del carbone. Il prezzo del carbone anche lui è sceso, ma meno di quello del gas, quindi fra le due fonti fossili il gas è risultato più competitivo. E quindi si è verificato anche un calo preferenziale proprio sulla produzione da carbone. Logicamente le fonti rinnovabili hanno giocato un ruolo importante, anche se non vale per tutte, perché ad esempio nel mese di marzo di quest'anno l'eolico ha prodotto circa un 30% in meno dell'equivalente mese dell'anno precedente. Ecco, questo mi sembra un dato importante sul quale riflettere, perché sappiamo che le fonti rinnovabili sono variabili per loro natura, però forse non ci si aspetterebbe che lo stesso mese dell'anno successivo ci possa essere il 30% in meno di vento rispetto all'anno precedente. Quindi sono importanti anche le variazioni anno per anno quando certo. si parla di fonti rinnovabili. Sì, diciamo che l'eolico è una fonte molto variabile, diciamo più difficilmente prevedibile, e quindi le variazioni non sono soltanto nell'arco di una giornata o di una settimana, ma possono anche investire periodi lunghi. Nonostante questo, la combinazione di sole, vento e idroelettrico ha fatto sì che una parte più importante della domanda elettrica è stata soddisfatta nel mese di marzo del 2020 dalle rinnovabili rispetto a un calo invece più marcato del gas e del carbone. Sì, allora diciamo che se consideriamo l'intero mese di marzo, il peso complessivo sulla produzione è stato il 42% nel mese di marzo 2020, era stato il 38% nel mese di marzo 2019. C'è poi stata una giornata particolare che avete preso in considerazione, che è quella del 5 aprile, che ci avvicina veramente molto a quella che potrebbe essere la struttura dei consumi, le modalità anche di funzionamento del sistema elettrico nel 2030. Allora, cosa ha di speciale totale questa giornata, che cosa è venuto fuori in termini perlomeno di consumi? Il 5 aprile è una giornata interessante in quanto domenica il carico elettrico è sempre particolarmente basso, come ovvio, ovviamente in questo caso si è combinato con gli effetti del lockdown e quindi è stato particolarmente basso a maggior ragione. In quella giornata c'era anche una buona produzione da vento e da sole, quindi si è verificato una miscela, diciamo, di fonti energetiche impiegate per la generazione elettrica che tende a somigliare molto a quello che è il nostro obiettivo 2030. Non ci è arrivata esattamente, però diciamo, se lo confrontiamo con la stessa giornata, la prima domenica di aprile dell'anno precedente, questa era risultata più o meno in linea con la media annuale. Quindi con una produzione, diciamo, da fonti rinnovabili del 32%, che corrisponde abbastanza alla media, e in particolare da sole e da vento era un 14%. Il 5 aprile abbiamo avuto invece il 48% da fonti rinnovabili, di cui il 30% da sole e da vento, che sono le più critiche in quanto più variabili e meno prevedibili. Ecco, Luigi, è importante spiegare una cosa, cioè anche negli anni passati abbiamo avuto delle giornate tipicamente a metà di agosto in cui l'Italia praticamente funzionava solo con le rinnovabili, ma appunto questo esperimento l'abbiamo potuto finora fare solo nel periodo di agosto, quindi è un esperimento unico quello che ci ha fatto fare, anche se involontariamente, il Covid. Sì, è corretto. Noi abbiamo scelto la giornata, la prima domenica di aprile, che era direttamente confrontabile con la stessa giornata dell'anno precedente, in cui è possibile contrapporre un sistema elettrico attuale nelle sue condizioni medie con un sistema elettrico futuro, quello in cui le rinnovabili hanno un ruolo molto più pesante. Di questo parleremo domani, perché il nostro tempo si è esaurito in questo momento. Allora, Luigi Mazzocchi, a domani sera. Grazie, ci sentiamo domani. E allora, cari ascoltatori, appuntamento a domani. Buona serata a tutti voi.